Allora, inizio io, anche perché si sente? Un po' basso? C'è Stanley? C'è qualcuno che alza? Si sente meglio? Sì. Buonasera, ciao a tutti. Inizio io che tempo fa ho scritto una recensione a Giandante X. Breve, che poi posso leggervi perché insomma fa da un po' da cornice e ci serve anche magari per entrare nel clima di quello che aggiungeranno con dovizia di particolari sia Nicola che Roberto. E, però magari prima di della recensione cercherei di inquadrare un po' in quale contesto io ho inserito la mia lettura di Giandante X. In un progetto dedicato all'opera di Valerio Evangelisti che stiamo mettendo a punto e che si farà in autunno qui al Cox. In un progetto dedicato all'opera di Valerio Evangelisti e al rapporto tra scrittura e movimenti, abbiamo scritto che l'idea del progetto, di questo progetto, è quella di rendere omaggio sia a uno scrittore, a un compagno che ci ha regalato sogni, bellezza, riflessioni con una produzione immaginifica e soprattutto coltivando le relazioni con quei movimenti, pensatori e attivisti, sia storici che contemporanei, che non hanno mai ammainato la bandiera della rivoluzione e dell'immaginazione, ma hanno cercato di ristabilire un punto di incontro in cui creazione, trasformazione del linguaggio e sensibilità complessiva battono lo stesso ritmo, cospirano assieme. Ecco, io credo che ristabilire questo punto di incontro tra creazione, trasformazione del linguaggio, trasformazione sociale, sia un po' anche il contesto in cui io inserisco la vita e l'opera di Giandante X come descritta da Roberto. Agamben, nel suo ultimo libro L'irrealizzabile, che come al solito oscilla tra ontologia heideggeriana, ma anche geniali intuizioni libertarie, scrive che Debord, riprendendo una formula marxiana sulla realizzazione e abolizione della filosofia al tempo stesso, Debord rimproverava i dadaisti di aver voluto abolire l'arte senza realizzarla, ai surrealisti di aver voluto realizzare l'arte senza abolirla. Quanto ai situazionisti, invece, essi intendevano realizzare l'arte e insieme abolirla. E credo che questo sia un po' in sintonia con quello che alcuni irregolari, non so come definirli, della teoria politica o della militanza, insomma, figure molto diverse fra di loro, pur con differenze considerevoli e anche litigando e polemizzando tra di loro in maniera radicale, come da buona tradizione dei movimenti di critica radicale, hanno cercato di sviluppare quel tipo di contesto. Non so se le edizioni Colibrì un anno fa hanno pubblicato il libro che sto leggendo di Francesco Cucchi Santini, non so se in collaborazione anche questo con la Calusca o meno, e il titolo è Apocalisse e sopravvivenza sulle considerazioni sulla critica dell'utopia capitale di Cesarano. E direi ecco, appunto che persone come Cucchi Santini o come lo stesso Cesarano, oppure Mario Perniola, oppure ancora Gianni Emilio Simonetti, che negli ultimi anni, fra l'altro, ha concentrato la riflessione teorica sulle tematiche dell'artificazione, lui le chiama, e, vale a dire la capacità del capitalismo, dello spettacolo e del controllo di costruire una confabulazione retorica al fine di trasformare qualunque cosa in arte, da una parte, e dall'altra però è capace di recuperare in maniera pressoché totale la creatività e l'immaginazione a fini aziendalistici e pubblicitari. Ecco, io ho letto Gian Dante in questo contesto, cioè in un contesto legato a un momento storico particolare, che è quello delle avanguardie storiche, ma soprattutto del surrealismo e poi successivamente del situazionismo. Gian Dante X non credo abbia avuto contatti diretti con questi movimenti, ha avuto un'evoluzione personale sia dal punto di vista della ricerca visiva che di pensiero, però a me sembra che possa rientrare in questa cornice. E mi permetto di leggervi velocemente la recensione. E all'inizio scrivevo appunto che sarebbe piaciuto a Mario Perniola, Gian Dante X, per pieno com'è di arte, politica, ascetismo rivoluzionario, fuga da ogni classificazione, come i personaggi di uno degli ultimi libri di Perniola, che è del terrorismo come una delle belle arti, in cui il filosofo racconta gli incontri della sua vita tra avanguardie artistiche e politiche, con uno sguardo disincantato e ironia, ma senza rinnegare nulla. Quello di Farina, secondo me, è un libro veramente importante, monumentale, dedicato alla figura di Gian Dante X, che fra l'altro esce in edizione ampliata perché era già uscito anni fa, e per me è importante sia per la scrittura, ha due aspetti importanti. Da una parte appunto la vita e l'opera di Gian Dante, e dall'altra la scrittura di Roberto, per cui è interessante, per cui è un, e poi per questa scrittura ibrida è un libro avvincente, ha certi passaggi sono veramente da romanzo, da narrativa, trascinanti, però è anche un saggio storico molto ben documentato. E, è un romanzo che travolge, è appassionante sia per il racconto delle avventure di vita dell'artista milanese che per la scrittura coinvolgente e la sapiente struttura narrativa, ma è anche un saggio costruito con indizi e frammenti scovati in anni di ricerche che alla fine ci restituiscono la vita di Gian Dante X. E Farina ha scritto altri libri, ma credo che quello di Gian Dante sia forse il più entusiasmante per la sapienza di intrecci, di rimandi e di suggestioni. E Gian Dante, magari lo racconterà ovviamente meglio poi Roberto, è lo pseudonimo con cui si firmò Dante Pescò, pittore e poeta che prima si laureò in architettura e poi in filosofia. Il suo nome lo scelse a 20 anni, anche questa è una cosa molto interessante e significativa. A 20 anni pensò che Gian Dante, ossia già andante, quindi in cammino, più la X, e cioè l'incognita del divenire, fosse la sua cifra. E scultore e pittore nel periodo futurista, fu successivamente autonomo da ogni corrente. Fu viscerale oppositore al fascismo e fece parte degli arditi del popolo, continuando poi il suo impegno nelle brigate internazionali durante la guerra di Spagna contro il franchismo, e dopo essere stato internato in campi di concentramento in Francia, in Italia, continuò il suo impegno nella resistenza. Salto dei pezzi, incontrò insomma personalità politiche e artistiche molto importanti, possiamo ricordare Giovanni Pesce, Giovanni Enori Pesce, Sironi, Carrà, Sassu, Treccani e molti altri, e tutti questi lo ricordano per la genialità, la cultura e il rigore esistenziale. Lui rimase misterioso e provocatore nel proporre uno sguardo diverso dal mondo. La mia lettura del libro mi porta a credere che fosse disinteressato a mettere in discussione le gerarchie e le caselle dell'arte, almeno dal dopoguerra in poi. Perché era coinvolto in una rivoluzione più complessiva della vita, che ripensava al potere dell'immaginazione. E Gian Dante Hicks tiene assieme nello stesso tempo l'incanto dei monaci tibetani che disegnano i mandala di polvere colorate distruggendoli appena terminati per ricordarci l'inconsistenza del tempo, e l'azione del materialista che vuole stare dentro e contro il mondo per cambiarlo. Il suo slogan era "un quadro in ogni casa", che fondeva il desiderio di un comunismo estetico condiviso e quello di anarchia della creatività che mette in ginocchio il mercato dell'arte. E una delle cose belle e importanti del libro è che spinge nell'immedesimazione sia di Gian Dante Hicks ma anche dell'autore, perché veramente gli intrecci, tutte le testimonianze che Roberto ha trovato sono interessantissime, e viene voglia proprio di andare a ricercare altri elementi per ricostruire la figura di questo visionario. Il finale era appunto sulla suggestione di questa spinta a immedesimarsi sia nell'autore che nel protagonista. Diceva così: "A noi piace immaginare Gian Dante nei suoi ultimi anni di vita, diciamo dal 1977 al 1984, anni di cui non v'è traccia nel libro di Roberto. Dopo aver attraversato il secolo, sfinito dal suo ascetismo rivoluzionario, Gian Dante Hicks siede su una panchina di una piazza milanese osservando il mondo che cambia, felice durante le manifestazioni dei giovani figli di nessuno, autonomi, femministe, anarchici, indiani metropolitani, punk, triste negli anni smorti del riflusso nel privato, in attesa della sua morte, mai domo, mai pacificato, ma distaccato e sereno. Cupo e pensieroso è davvero un buon compagno da avere intorno. Sente il più piccolo suono e capta l'arrivo degli aerei molto prima di qualunque altro." Questa è una descrizione che John Tisa, un volontario antifascista in Spagna, fa di Gian Dante. "Sente il più piccolo suono e capta l'arrivo degli aerei molto prima di qualunque altro." E in fondo Gian Dante Hicks era un uomo radar, non solo per questo, ma anche dal punto di vista etico e politico e artistico. E quindi risintonizzarsi sulla sua sensibilità è necessario. Grazie, bellissimo. Grazie Mark, grande sintesi, si dovrebbe parlare del tuo articolo, in questo momento, forse più il mio libro. Posso dire che questo libro raccoglie decenni di ricerche. Non sto a raccontarvi come ho conosciuto Gian Dante X, perché molti di voi me l'hanno sentito dire, penso, 100 volte. Però, insomma, avevo 15 anni quando ho conosciuto la figura di Gian Dante X. Me ne sono innamorato all'epoca, senza sapere nulla della sua attività politica. Avevo trovato questo volume in casa di un amico, che mi era stato mostrato da suo padre, stringendo, se no che izzimi. E il racconto però è particolareggiato nel libro. E quindi io avevo trovato di fronte a una sua opera negli anni 60 ed ero rimasto colpito da questa immagine. L'amore nasce da lì, quindi l'impressione proprio è, cioè, io ho amato il pittore prima di tutto, e quando dico io sto parlando di me quindicenne, quindi faccio notare che Gian Dante, insomma, io l'ho amato a 15 anni, mi emoziona nello stesso modo, insomma in modo diverso, però insomma mi emoziona ugualmente adesso. Ed è not, per quindi è un pittore che è piaciuto, un ragazzo di 15 anni che non sapeva niente di lui, è piaciuto all'uomo che mi ha presentato Gian Dante, che era un signore di 60 anni con tutt'altra formazione, è piaciuto ai miei amici per motivi politici, altri per motivi biografici e altri ancora per motivi pittorici, persone che segnano l'università, che sono all'interno di gallerie, eccetera. Quindi insomma, secondo me Gian Dante è un grande pittore popolare, piace a tutti. Nel momento in cui si trova di fronte a una sua opera, smuove sempre qualcosa, secondo me, se non si è troppo distratti. Quindi da allora, da quando avevo 15 anni, ho cominciato poco a poco, non avevo in mente di scrivere qualcosa su Gian Dante, però ero molto interessato alla figura, e visto che non si trovava nulla di suo in giro, su di lui, io ho cominciato a fare piccole ricerche in città, sulla città. E ho incontrato, e Gian Dante mi ha aperto, è stata una porta che mi ha aperto un sacco di incontri meravigliosi. Ho incontrato Ernesto Treccani, che era quasi la fine della sua vita. Ho incontrato Giovanni Pesce e Marina Brambilla. All'epoca avevo 24-25 anni e ne leggevo nei libri di storia, secondo me erano, cioè, me li immaginavo morti da decenni, invece erano molto in forma. Ed è nata un'amicizia che è durata fino alla fine della loro vita. Ho incontrato Raffaele De Grada, e questo per dire nomi che conosciamo più o meno tutti. Poi ho incontrato anche Rita Pescò, la novantenne, l'ultima nipote vivente di Gian Dante, che mi ha raccontato cose della sua vita. Insomma, ho raccolto un sacco di informazioni di prima mano. Ed è la cosa di cui vado orgoglioso di questo libro. Cioè, se non mi fossi mosso in tempo, poi queste persone sono tutte scomparse, noi molte delle cose che ho scritto nel libro non le avremmo sapute, cose intime di Gian Dante. E anche punti di vista molto intimi. L'incontro con Dino Formaggio, bellissimo. Vabbè, sì, non avevo, e anch'io adesso non avevo citato Dino Formaggio. Incontrai Scaramuzza, che è stato un allievo di Formaggio, insegnava estetica anche Scaramuzza alla Statale. Lo incontrai in Sormani, visto che sapevo che Scaramuzza aveva conosciuto Formaggio avevo letto, non mi ricordo più dove, comunque il libro è tutto specificato, tutto annotato. Formaggio aveva incontrato Gian Dante, ho fermato Scaramuzza e gli ho chiesto il numero di telefono di Dino Formaggio per parlare di Gian Dante X. Scaramuzza me l'ha dettato a memoria. Io ho chiamato Dino Formaggio e Formaggio mi ha subito invitato a casa sua. Questo è stato un altro dei grandi incontri. Mi ricordo quando sono andato a Ellasi, l'appuntamento era, non so, alle 11, io sono arrivato alle 10:30, quindi ho aspettato nella piazzetta di Ellasi una mezz'oretta, ho bevuto qualcosa, poi ho preso la macchina, la sua via era vicinissima alla piazza. Alle 11 meno 2 minuti prendo la macchina, giro l'angolo e Dino Formaggio, e vedo quest'uomo, non l'avevo mai visto prima, in jeans, camicia bianca, questi capelli bianchi al vento, che mi aspettava davanti alla porta di casa sua. Appena l'ho visto, l'ho salutato come se fosse un vecchio amico, e anche lui mi ha salutato. Ho parcheggiato lì, sono entrato e è cominciata quest'altra amicizia. Quindi Gian Dante mi ha regalato anche queste emozioni. E Dino Formaggio mi ha molto incoraggiato per la scrittura del libro. Lui lesse, non fece a tempo a leggerlo tutto, lesse solo la parte centrale, che è la parte, diciamo, saggistica. Okay. Io ho scritto una tesi su Gian Dante X perché il mio professore di storia dell'arte dell'epoca, Antonello Negri, rifiutò il mio titolo, che non mi ricordo neanche più quale fosse, e mi disse: io so che lei ama Gian Dante X, perché non parla di lui, non scrive di lui? E scoprì che Antonello Negri, questo professore di estetica della Statale, rinomato, aveva da ragazzino a 15 anni, la stessa età di quando io avevo conosciuto Gian Dante, aveva sul suo letto un quadro di Gian Dante X e un paginone centrale di, mi sembra, dell'Espresso, dove c'era la Bardot seminuda, quindi i suoi riferimenti. Perciò ho fatto la tesi e quello che è stata la tesi io l'ho condensato nella parte centrale del libro. Quando ho incontrato Edoardo e Nicola, cioè loro due mi hanno trovato, gli ho proposto la pubblicazione della parte centrale. Nato A, morto A, razionalismo italiano, le tre biennali di Monza, il critico Raffaello Giolli che lo segue, Sironi che lo protegge dai fascisti, male, l'ha protetto molto male, ne scrive la Sarfatti, ne scrive Carrà, ne scrive Balla, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il saggio centrale. Secondo loro non avrebbe venduto una copia, quindi mi hanno detto dobbiamo pensare a un'altra soluzione. E ci è venuto in mente di, appunto, questo esperimento, inserire la parte saggistica fra due parti narrative, anche perché un sacco di materiale che avevo messo insieme nel corso delle mie ricerche non avevo potuto inserire nella parte saggistica perché non tornava, non so, questi incontri intimi, no? E certi commenti, quello che avevo scoperto in un bar di una periferia di Milano, dettomi da una nonnina che mi aveva sentito parlare di Gian Dante, ah ma io lo conoscevo l'architetto Gian Dante, era un minisci piscin, sembrava un barbun e mi ha raccontato che lo vedeva sempre alla stazione di Cadorna, seduto sulle fioriere, a guardare passare la gente che andava, che partiva e tornava. Tutte queste cose non potevo inserire nel saggio centrale, che si rivolgeva ai ricercatori. Allora cosa abbiamo fatto? Le ho inserite tutte nella prima e nella terza parte, questa della mia ricerca. E ne è venuto fuori un esperimento, secondo me, me lo dico da solo, riuscito, perché beh, anche Mark è piaciuto molto, perché secondo me insomma, io avevo un po' di ambizioni di rivolgermi agli studiosi del settore perché mi è sempre spiaciuto che Gian Dante non sia stato mai studiato come si deve, però poi insomma in realtà le mie mire erano altre, le mie voglie di raccontare era altra, è venuto fuori un altro libro che infatti può essere letto da tutti, ma penso che sia letto molto poco da persone, dai ricercatori, anche se devo dire che le informazioni che ho trovato io, anche soprattutto quelle di prima mano, possono essere un punto di riferimento per di partenza per approfondire un domani, spero che qualcuno possa approfondire Gian Dante. Sarà difficile perché Gian Dante non ha un grande valore economico, questo lo penalizza, cioè, è quello che voleva lui voleva arrivare in ogni casa, diceva un quadro in ogni casa, tra l'altro questo suo slogan me l'ha raccontato il signor Manuset, che era, molti di voi lo ricorderanno, il signor Manuset era il libraio del chiosco che c'era nel vicolo Santa Margherita, ha chiuso 10 anni fa, l'aveva aperto nel 1963, un omino elegante che aveva questo chiosco che vendeva quadri, cartine d'epoca, libri d'epoca e anche libri a 5.000 lire, poi insomma, quello che era, 5 euro per tutti. E il signor Manuset, io gli ho chiesto di Gian Dante, lui mi ha detto certo che conoscevo l'architetto Gian Dante, anche lui era un min piccino in sci, il fatto che Manuset era alto 1,55 m, cioè anche lui diceva che Gian Dante era così, quindi insomma doveva essere davvero molto basso, e mi ha detto che passava sempre con passo veloce, stessa cosa che mi ha detto Treccani, con un fascio di giornali sempre arrotolato sotto il braccio e una borsa nell'altro braccio. Nella borsa che cosa c'era? Questo l'ho saputo da altri, ad esempio dalla figlia di Scalarini, che a Bov si chiamava, la nipote di Scalarini, che mi ha detto che Gian Dante andava sempre in giro con una borsa e quando incontrava qualcuno, un amico, in questo caso quando ha incontrato lei, l'ha incontrata sul tram una volta, l'ha guardata, ha aperto la borsa, c'erano dentro le sue opere e gli ha detto scegli. E infatti questo faceva incazzare i galleristi che cercavano di lanciarlo, perché lui regalava le sue opere. Una volta le ha regalate anche di fronte a una galleria il giorno del vernissage, il giorno in cui la galleria voleva lanciare le sue opere, lui andò lì e regalò. E quindi un quadro in ogni casa non l'ho letto, non è scritto da nessuna parte, me l'ha detto il signor Manuset, dice che passava sempre al chiosco su, diceva un quadro in ogni casa, un quadro in ogni casa, e gli portava questi pacchi di carta di cartone dove all'interno c'erano degli incausti che lui negli anni 70 produceva velocissimamente. Questi incausti erano tempera trattata con cera bollente, e ogni volta che ho chiesto a qualcuno di spiegarmi bene la tecnica, ognuno me ne ha parlato in modo diverso, però di sicuro c'era di mezzo la cera bollente che fusa i colori. Veniva steso su un supporto di legno, era ottimale, lui usava invece un materiale di compensato quasi, che si usa per gli armadi, per il retro degli armadi, che era molto economico. Poi interveniva con un ferro rovente, che poteva essere anche un ferro da stiro oggi, e lavorava sui colori. e ne ha prodotti davvero tanti. Cioè, li lasciava a Monuseli, li lasciava alla Fiera di Sinigaglia, la mattina presto arrivavano questi pacchi da 10, prendeva 100.000 lire, le metteva in tasca e se la filava. Perciò moltissimi possono avere un giandante in casa. Oggi ero a pranzo in una latteria di via Stendhal, ero solo, sono stato invitato al tavolo da tre persone che conoscevo di vista. Dai, se sei solo, vieni a mangiare con me, questo e quest'altro. Cosa fai stasera? Ma sì, presento un libro su un pittore. No, cosa fai nella vita? Ma sì, ora sto scrivendo, stasera presento un libro. Che libro è? Un pittore si chiamava Giandante. Giandante X! Ne ho uno a casa. In realtà mi ha detto che l'aveva venduto per 100.000, per 100 euro. Vabbè. Comunque, lo si trova Giandante. Magari lo potete trovare, ora che sapete chi è, lo potete riconoscere nelle case di qualcuno, perché ha prodotto davvero tantissimo. Perché ho detto questo? Il fatto che abbia prodotto così tanto, come hai detto tu prima, che era distrutto il mercato, la dichiarazione di morte del mercato dell'arte, cioè, che è reciproca questa cosa. Cioè, lui ha annientato i galleristi che volevano fare soldi con la sua opera, però ha anche annientato la possibilità che i galleristi e i critici, quindi, e i musei, perché la triangolazione è questa, no? Cioè, c'è un grande collezionista che ha un sacco di opere, vuole farle rivalutare, quindi chiede a un gallerista di occuparsene. Il gallerista paga un critico d'arte che scopre la genialità di questo pittore, guarda caso, che è nella casa del borghese di turno, e poi magari rientra anche il museo che fa una piccola mostra o grande, il prezzo si alza e si forma il mercato. Ecco, questa cosa con Giandante non si può fare, visto che tutti l'abbiamo in casa, le opere degli anni 70, poi ci sono cose degli anni 20 che invece non ha nessuno. Però, non essendoci critici accreditati che parlino di Giandante, che dedichino a Giandante volumi su volumi su volumi, il valore dell'opera rimane molto basso. Questo permette a tutti noi di averlo in casa, ma nello stesso tempo lo esclude da degli studi più approfonditi. Alla fine me ne sono occupato solo io, in questo modo. Hanno scritto degli articoli dei professori del Politecnico, Roberto Duglio, poi ne ha scritto Antonello Negri, ora non vorrei dimenticarmi, un caro amico mio che si chiama Alessandro Capozza, autodidatta, si è concentrato, ha trovato il materiale di Giandante in Spagna, ha scritto un grande libro per l'AECVAS, pubblicato in 500 copie, esaurito, e Daniele Amico della Fondazione Corrente ne ha scritto, e altri, un critico pugliese, comunque tutto è tutto nel mio libro. Non stiamo registrando, vero? Stiamo registrando? In questo momento dei voti di memoria sui nomi. Comunque, mi spiace non citare tutti. Comunque sia, c'è qualcuno che se ne occupa e c'è qualcuno che se ne è occupato anche negli anni 30. Non so, Raffaello Giolli, non so se vi dice qualcosa. Io non lo conoscevo, studiando Giandante ho conosciuto anche Giolli. Ed era molto molto amato dagli antifascisti dell'epoca. Voglio ricordare, non so, Ernesto Treccani, quando sono andato a trovarlo a casa, era già nella sedia a rotelle, come scrivo, sembrava una mummia, e era seduto davanti a questa grande finestra che c'è in casa sua, no, in via Colonna, no, sono nelle parti di via Turati, e l'ho trovato seduto su questa poltrona, sembrava davvero dormire, anche se aveva gli occhi aperti, incavati, il volto ossuto. Mi sono seduto davanti a lui e gli ho detto che stavo facendo una ricerca su Giandante, e lui con estrema sofferenza, fatica, a voce bassissima, mi ha detto: Giandante X scelse il suo nome come emblema di pace. E poi ha taciuto. Io ho aspettato del tempo e lui non parlava più. Allora la sua segretaria mi ha fatto cenno, mi ha detto, è già finita, andiamo. Io ho fatto per alzarmi, e in quel momento lui si è mosso un po' da Adamo, e ha detto: Giandante X, veloce passo quando i navigli non erano ancora coperti. E poi ha taciuto, e sono andato. Quindi mi ha dedicato, cioè, a quest'uomo, con le forze che aveva, sepolto nel suo corpo, perché era davvero sepolto, ha creato forse una poesia per un perfetto sconosciuto che non aveva mai visto prima, che non sapeva cosa avrebbe fatto, gli ha regalata. Cioè, questo è una delle tante cose che accadono facendo ricerche su Giandante X, quindi vi invito a farne. Grazie. Ti fa faccio una domanda. Chiaramente era Michele La Sala il critico, il giovane critico pugliese molto in gamba che ha scritto di Gian Dante. Poi ne ha parlato anche Emanuele Gregolini, che è un pittore di Novate, molto intelligente, molto talentuoso, anche lui ha amato Gian Dante, eccetera. Comunque sono tutte testimonianze che sono nel libro. Ma io ti faccio solo una breve domanda, insomma. Quando tu hai iniziato questo lavoro su Gian Dante X, inevitabilmente è sorto il romanzo, nel senso che quando tu ci hai proposto quella traccia, che era la traccia, comunque era la tesi, no? E noi ti abbiamo poi, c'è stato un dialogo, non è che te l'abbiamo consigliato così, c'è stato un dialogo e tu anche, ti sei impossessato di questa idea e hai iniziato questa caccia al tesoro, no? Questa caccia al tesoro per Milano, e non solo per Milano, ma soprattutto per Milano, di Gian Dante X. Però poi è uscita fuori anche la tua personalità, per cui questo è un libro, sì, su Gian Dante X, ma come sempre, e come anche altri romanzi, altri testi di Roberto Farina, è anche un romanzo su Roberto Farina. Questo non per amplificare non il tuo ego. Che non sapevo come altro raccontarlo. Certo, come facevo a dire? C'ero io che ero andato da Trecani. Ma la parte più interessante poi alla fine che salta fuori è proprio in questa caccia al tesoro, dove esce fuori la tua personalità e la personalità di Gian Dante X. A un certo punto può capitare in un lettore, a me è capitato, di confrontare le due personalità. No, la personalità di Roberto Farina è quella di Gian Dante X, ma non per, cioè, è proprio un inevitabilmente salta fuori, ma salta fuori anche negli altri tuoi libri che non voglio citare, però tu Roberto non sei un è vero, sei un super appassionato di Gian Dante X, super studioso di Gian Dante X, ma tu hai fatto anche altre cose, no? Ne vorrei approfittare per poi parlare magari brevemente di altre tue opere, dove tu continui in questo filone, che è una filone di caccia al tesoro delle persone di cui tu vuoi parlare, e dove esce fuori anche la tua personalità, quello che tu sei, no? Sì. Sì, ma è inevitabile, no? Non tutti fanno così. No, ma visto che io non riesco a tenere un registro distaccato, scientifico, non sarei bravo, non riuscirei a scrivere in quel modo. L'unico modo è raccontare quello che mi è capitato facendo le mie ricerche. E visto che capita a me, ne parlo anche di me, e poi sì, non so se c'è del. Come altro avrei potuto fare? Mi sembra, ho scritto un libro di racconti, però in cui io non compaio. Cioè, in cui non compare nemmeno il narratore, proprio distacco assoluto, però sono tutti sì, alcuni dei personaggi dei libri di racconti li ho anche, cioè uno è mio cugino, Onorina l'ho conosciuta, appunto, Giovanni esce sempre. Cioè, è possibile farlo, però anche lì c'è un taglio narrativo, io non ci sono ma c'è un taglio narrativo, negli altri è vero, ci sono anche io, in quello di Onorina Brambilla Pesce, il pane bianco io non ci sono. No, ci sei, no, il pane quando bianco la vai a trovare, sì. No, lì tu ti stai confondendo con Gian Dante. Io racconto in Gian Dante che vado a trovare Onorina, però nel libro di Onorina io non ci sono. Nel libro del Pelé, che Giovanni apprezza, io non ci sono. No, c'è qualcosa. C'è qualcosa, anche in Onorina. Sì. Certo. Ci sei sempre. Le opere che vedete qui, questa ad esempio è un'opera del 27, qua siamo agli anni 20, questi sono capolavori. E meriterebbero, cioè, se fossimo, non so, Milano sta facendo una gran brutta figura con Gian Dante X. Adesso c'è stata una piccola mostra a Firenze, abbiamo presentato il libro alla Biblioteca delle Oblate, che insomma è un posto prestigioso del XIII secolo, dal vicino alla piazza di Santa Maria del Fiore, un posto meraviglioso, insomma. Poi c'è un Matteo Focchessati, che è il direttore di una fondazione, la Fondazione Wolfsoniana di Genova, e sta pensando a una mostra su Gian Dante X. Soltanto Milano dorme. E dormono tutti, eh. Io più volte ho provato, ho mandato mail, ti ignorano anche quando li insulti per avere una risposta, ti ignorano, non gliene frega niente a nessuno. Solo la Fondazione Corrente ha fatto qualcosa, è una galleria di Brera, la Galleria Consadori. Questa signora ha molti Gian Dante perché il padre era pittore amico di Gian Dante e ha dei Gian Dante molto belli che non si trovano su eBay. E quindi lei ogni tanto fa una mostra e gli mette fuori 2.000 euro, 1.800. Secondo me va bene, perché così magari stimola appunto gli interessi di qualche critico d'arte che se non si muoverebbe. Spiace il fatto che quei Giandante non siano in ogni casa come avrebbe voluto lui, però per chi di noi... chi di noi non ha quei soldi da spendere ne può trovare a 100 euro, 80, 40, ti ritirano dietro. Quelli degli anni 70, che io ho amato moltissimo, il mio primo Giandante del 73. E ora invece ho questi. Perché dopo che ho scritto il libro, mentre prima ero io che cercavo Giandante dappertutto, la cosa, dopo che ho scritto il libro sono diventato un'antenna e tutti quelli che avevano dei Giandanti in casa mi cercavano. E tipo 3 anni fa sono stato contattato... Beh, i racconti sarebbero tanti, eh. Secondo me tutti molto belli, perché sono tutte persone molto interessanti, però gli ultimissimi sono i coniugi Buttafava, che mi hanno contattato perché lui, Pietro Buttafava, che ha sugli 80 anni, è figlio di Carlo Buttafava, che era compagno di banco delle elementari di Giandante X. E quindi quando Giandante nel 1933, dopo l'ennesimo pestaggio, cioè, hanno davvero massacrato di botte i fascisti e Giandante dal 23 al 33. Ci sono anche scene di violenza belluina, chiaro, i fascisti, però anche una volta l'hanno preso, l'hanno tirato, l'hanno pitturato di rosso con i suoi colori, l'hanno denudato, pitturato di rosso, portato in strada e riempito di botte. Lo odiavano. E queste cose arrivano, le ho trovate nei libri, non so, di Vaia, che racconta appunto la sua esperienza, no, in Spagna, prima della Spagna, in Italia, racconti funerali di Serrati, dice in tutto questo, quando la polizia ha attaccato, no, ha visto Giandante X, il pittore Giandante X, inseguito da una squadra che inferiva su di lui, e lui cerca di salvarsi, di seminarli salendo su un tram, questi lo seguono sul tram, lo riempiono di botte, c'erano con lui, anche perché lui era molto appariscente, completamente calvo, vestito sempre con un pastrano nero, scarponi chiodati, sguardo dritto, cioè davvero duro, una persona durissima, e era molto difficile stargli vicino, lo notavano, anarchico, incendiario, lo definivano così, e, insomma, appena potevano lo mettevano dentro, lo pestavano. Perché ho detto questo? Mi sono arrivato? Non mi ricordo. Ah, ecco, sì, Carlo Buttafava. Quindi Pietro Buttafava mi dice, mio padre ha un sacco di materiale di Giandante X, noi dopo di noi non sappiamo che fine farà, vorremmo darlo a lei. E questa cosa è capitata più di una volta. Quindi ho cominciato a raccogliere molte opere, tra le quali queste. Queste sono opere rarissime del 1920. E uniche all'epoca. Questa è del 1928-30. La datazione che do io è, la do in base a altre opere datate trovate magari sull'unico catalogo esistente di Giandante, che è del 63, o su altre opere che ho trovato io. Questa mi è stata, è un'eredità, per dire, la Wanda Brambilla, la sorella di Onorina Brambilla Pesce, aveva 3 Giandante e prima di morire ha detto: i miei Giandante vanno a Roberto. Quello era uno di, questo qua era di Claudio Ruggerini, la partigiana che ha riconosciuto il corpo di Eugenio Curiel. Cioè, è anche questa un'eredità, perché avevo incontrato Claudio Ruggerini, ho scritto anche un racconto su di lei e lei mi ha lasciato i suoi Giandanti. Queste sono opere della Spagna, in Spagna si ricordano di lui, in Italia no, ma in Spagna sì, perché lui era nell'ufficio propaganda delle Brigate Internazionali. E comunque, dovunque c'è stato un combattimento, a Milano, Giandante lo trovate dappertutto, nelle case dei partigiani di chi faceva la politica all'epoca. E lo trovate anche in Argentina, lo trovate anche a New York, lo trovate a Mosca, a Londra, in Francia, perché quando lui è stato nelle Brigate Internazionali, dopo è stato internato nei campi di concentramento francesi, faceva opere di questo tipo, che sono grandi, poco più grandi, sono 10 cm per 8, fatte con matite colorate, con una tecnica probabilmente di frottage, questo invece siamo già ancora negli anni 20, e lui faceva queste opere nei campi di concentramento, cioè fame, sporcizia, botte, faceva quelle opere e le donava ai compagni che venivano rimpatriati. Questi se li mettevano in un quaderno e se li portavano via. E quindi emergono, adesso non so, in rete un mio amico ha trovato 3 disegni dei campi di concentramento a Buenos Aires. Quindi ovunque nel mondo c'era un combattente delle Brigate Internazionali che era riuscito a tornare a casa, si poteva trovare un Giandante X. Queste sono cose degli anni 20 che lo hanno fatto definire uno dei fondatori del razionalismo italiano insieme al gruppo 7, cioè Terragni, per dire. Lui ha avuto davvero la possibilità del successo e dei soldi. Dei soldi l'ha avuta perché era figlio della ricca borghesia milanese e a 16 anni ha chiuso col padre, ha cancellato il cognome con una X, che è l'incognita, come dici tu, ma anche la firma dell'analfabeta e anche la croce sulle spalle, cioè la X vuol dire un sacco di cose, no? E anche l'anonimato. Ha cancellato il cognome del padre, ha cambiato il suo nome e da allora non ha avuto più nessun contatto con la famiglia, ed erano soldi, erano milioni, erano fabbriche, tessili. Poi negli anni 20 era entrato in contatto con una grossa galleria milanese del conte di Castelbarco, pieno di soldi, contatti con è quello che ha portato in Italia Tamara dell'Empizca, mostre di Wild, eccetera, e nel giro di un anno o due ha bruciato i contatti. Il Novecento lo volevano con loro, e lui non voleva, chiaramente, che c'era Sarfatti e che c'era Mussolini che teneva le allocuzioni d'apertura delle mostre, figurati. È stato alle biennali di Monza, prestigiose, venivano da tutto il mondo, e alla prima triennale di Milano, ma anche lì sempre in solitaria. Non si univa nessuno. Aligi Sasso dice che loro volevano che lui facesse mostre con loro e lui rifiutava. E poi nel 1933 fuoriesce, va in Francia, vive poveramente. Le notizie che abbiamo le abbiamo grazie a Lovra, che lo teneva d'occhio, quindi c'è tutto un dossier su di lui, dove parlano appunto delle galere che si è fatto, dei pestaggi, delle espulsioni, non lo volevano da nessuna parte, in Francia lo cacciavano in Belgio rimandavano in Francia, finché nel 1936 non va in Spagna, guerra di Spagna, sta lì fino all'ultimo, si sciolgono le brigate internazionali, lui rimane, illustri i giornali di brigata, infatti John Tisa se lo ricorda per quello, lui illustrava questo giornale Volunteer of Liberty. Quando Franco arriva a Barcellona, Giandanti insieme a altri 250.000 arriva in Francia e lì si fa fino al 42 i campi di concentramento francesi, che Arthur Koestler ricorda come, dice, a parte i campi di sterminio tedeschi c'erano i campi di concentramento francesi, ma dice come livello di sporcizia, malattia e morte non violenta ma per consunzione eravamo allo stesso punto. Questo dice, lo racconta Koestler, che si è fatto, mi sembra, Gurs, uno dei tre o quattro campi. Giandanti se li ha fatti tutti. Poi lo consegnano agli italiani nel 1942 e loro lo mandano a Ustica. Quando cade il fascismo, cominciano a liberare tutti i politici, eccetto gli anarchici, che vengono mandati nel campo di concentramento di Rinicci Anghiari, insieme agli slavi, in Toscana. Giandanti rimane lì fino all'8 settembre. Quando l'8 settembre i gendarmi se la filano, lui esce, invece di andare al sud, va al nord, arriva a Milano, prende contatto con le brigate Matteotti, e fa la resistenza fino al 45. Quando nel 45 riemerge fra le macerie di Milano, Mazzotta ha quasi un infarto, perché erano tutti convinti che fosse morto in Spagna. Era stata data questa notizia, nella battaglia di Guadalajara. E poi nel dopoguerra comincia l'effetto di dimenticanza. Cioè, come era stato, prima l'aveva dato per morto, poi ritorno, e avevano detto avremmo dovuto celebrare Giandante X, il mistico del comunismo lo chiamavano. Una grande mostra antologica, eccetera. Invece quando compare lui se lo dimenticano di nuovo, ne scrive Giulia Veronesi, ne scrive Alfonso Gatto, eccetera. Però insomma lui rimane un refrattario, non apre la porta a nessuno e passa con alterne vicende, alterne fortune, perché negli anni 60 ha anche venduto abbastanza bene. Infatti l'Istituto Luce gli ha dedicato un piccolo spot, qualcosa venduto nei primi anni 60, c'è stato un catalogo su di lui molto bello, di lusso, prestigioso, bellissimo, e poi poco a poco si isola sempre più fino a diventare quasi clochard, e poi ci sono tutte le varie notizie sulla sua fine, prese da un medico, da un nipote, al pronipote, dalla vedova di un suo vecchio amico, comunque nel libro è tutto scritto, e mi fa piacere che si continui a parlarne. Secondo me è un colosso del Novecento. Io sono onorato, cioè per una grande fortuna che nessuno lo conoscesse, perché mi ha dato la possibilità di scrivere qualcosa che andava scritto, di non inutile. Ecco. Lui è stato poeta anche. Ha pubblicato 4 libri di poesie, io ne ho trovati 3. I titoli sono L'uomo che ha visto, Canto di dolore e d'amore, e L'eterno viandante, intensissimi, mattoni usciti dalla fornace, sono stati definiti così, molto semplice, molto diretto, molto popolare, nulla di ermetico, nulla di... insomma, anche quelle sono come i suoi quadri, poesie che arrivano subito. Nel libro ci sono frammenti di queste poesie. Ed era anche un ottimo poeta. Ha avuto anche delle recensioni dalla Maria Albini, che era la moglie di Albini, dell'architetto, che lo paragona a Dino Campana come intensità in alcuni frammenti. Sono poesie, frammenti e anche piccole dichiarazioni di poetica. E sono interessanti anche perché lui era un pittore, cioè c'è molto colore in queste poesie e ci sono molte immagini forti, cioè di quello che lui ha visto, ne ha viste tante. Non soltanto il decennio di confinamento sul posto che ha vissuto qui, ma anche la miseria che ha vissuto tutta la vita, ma soprattutto in Francia quando è fuoriuscito, ma soprattutto la guerra di Spagna e poi i campi di concentramento e la guerra di resistenza qui e i bombardamenti, c'è tutto nelle sue poesie, sembra quasi un diario. Tu hai parlato della partecipazione di Gendante X alla guerra di Spagna. Milano negli anni 50 e fino ai primi anni 60 è un'importante crocevia della resistenza antifranchista. È da Milano che parte Sabaté per fare le sue azioni, a Milano arriva Grandizio Muniz che con la poeta surrealista Peré fonda un'organizzazione rivoluzionaria e varie cose. Ecco, ti chiedo se ti risultano dei rapporti tra Gendante X e questo giro dell'emigrazione antifranchista che proprio a Milano aveva uno snodo molto importante. No, non mi risulta, però io non lo sapevo. Quindi forse se non mi risulta anche perché io non avevo questa informazione, non ho saputo cercare in quella direzione. Ecco, e l'altra domanda invece, non dal punto di vista pittorico, ma dal punto di vista esistenziale e della resistenza al fascismo ormai affermatosi, a me è venuta in mente una figura come quella di Gino Severini, per le sue opere, soprattutto quelle più sensibile alla condizione proletaria, di emarginazione del tempo. Non c'entra niente, c'è qualche elemento di collegamento che si può fare, ripeto, non sul piano del segno, ma invece dal punto di vista proprio esistenziale e della presenza alla storia di quegli anni. Guarda, Gendante era un individualista assoluto. Io penso che chiunque da Severini ma anche a Sironi, che invece era inserito, no? Era un pittore di regime, però in alcuni momenti ha avuto una forza libertaria dirompente, secondo me, soprattutto nei primissimi anni 20, no? Questa cosa che poi lui ha sepolto. Penso che chiunque abbia nutrito un ideale rivoluzionario di quel tipo sia stato un compagno di strada di Gendante, o meglio, Gendante è stato un loro compagno di strada che poi però si è sempre ritrovato solo. Forse c'era anche della patologia in questo. Ho testimonianze di amici intimi che a un certo punto venivano allontanati senza nessun motivo. Lui rompeva le amicizie, chiudeva la porta. Anche Giovanni Pesce: Gendante, sono pesce, non li apriva. Hai bisogno di qualcosa, Gendante? Niente. Quindi allora loro di loro spontanea volontà lasciano lì magari il giornale della frutta e cose così. Quindi secondo me Gendante, proprio perché per il suo individualismo assoluto, lo si potrebbe, volendo, riuscire a inserire in ogni tipo di movimento antagonista e rivoluzionario del Novecento storico. Cioè, mi riferisco a quelli storici che hanno fatto la storia. Non so, Gendante per i comunisti è un comunista. Giovanni Pesce era un comunista particolare, lo considerava un anarchico. Però ad esempio Italo Poma dell'Aikvas dice che Gendante aveva preso la tessera, questa cosa non mi risulta, ed era un comunista. Per gli anarchici un anarchico, ha combattuto con i socialisti nella resistenza. un amico di amici, cioè un amico fascista, un fascista evoluto, ma insomma decisamente fascista, mi ha detto: se mi dai, se mi trovi una scultura di Gian Dante, ti do un assegno in bianco. È un fascista molto ricco. Cioè, questo comunque non c'entra con quello che stavo dicendo, però in virtù del suo individualismo assoluto, a cui non è mai venuto meno e che non è deformabile da nessun punto di vista, perché è sempre lui. Per questo ho messo all'inizio la citazione di Max Haub: l'importante non è lasciare traccia che è alla portata di chiunque, ma rimanere se stessi anche dopo la morte. Cioè, Giannetti è riuscito a fare questa cosa, anche dal punto di vista del mercato, non è nessuno riuscito a appropriarsene. Per questo motivo oggi, cioè, questa cosa che forse lo ha isolato negli anni della grande politica, proprio perché non era nessuno poteva, cioè non lo voleva nessuno perché lui era diverso da tutti, adesso lo può invece mostrarci come Gian Dante può essere un emblema di un tipo di lotta di anarchica, comunista, e basta, di questi due. Non so se ho risposto. Non mi risulta che si siano mai incontrati, anche a Parigi lui non frequentava gli ambienti antifascisti, non ci sono testimonianze di questo. Comunque ecco, se questa risposta vi è parsa un po' confusa, anche perché comunque nel nome di Gian Dante c'è una X, cioè, c'è qualcosa di indefinibile, sempre c'è stato. E penso che nel mio libro questa sua caratteristica rimanga intatta, cioè non do risposte definitive su Gian Dante. La pittura? Ah, c'era una scultura anche, che non l'ho vista. E quella è una scultura del 28, in gesso. È stato un periodo in cui Gian Dante appunto aveva delle committenze. C'è un palazzo in via Caradosso, ora lo stanno ristrutturando, non so dirvi il numero civico, non me lo ricordo, ma è riconoscibile, dove ci sono anche delle sue teste. È il periodo in cui collaborava con questo grande committente, questo conte di Castelbarco, che gli ha anche permesso di fare le uniche tre fusioni che si conoscono in bronzo di Gian Dante, che è un testone di queste dimensioni, in bronzo, molto potente, del 24, che uno dei quali è nella collezione di Franco Maria Ricci. Se c'è Correggio, è Gian Dante X. Okay. Franco Maria Ricci amava molto quest'opera e l'ha intitolata lui Testa di Mussolini. Erroneamente, e questo titolo è rimbalzato ovunque. Adesso chiunque ne parli, anche i critici dicono che è la testa di Mussolini. Non è così. Il titolo potrebbe essere Fante ferito, un'opera del 24, molto prima che l'iconografia fascista si affermasse con il mascellone e il pelato, no? E, inoltre ha un elmetto, inoltre non somiglia nemmeno a Mussolini, non capisco perché l'abbiano voluta definire così. E, c'è un malinteso su Gian Dante, anche un critico d'arte che si chiamava Tempesti negli anni 70 lo definì un artista di fisionomia mussoliniana, molti lo collegano ai futuristi, invece no, non c'entra nulla. Approfondendo capisci, vedi che proprio lì non ha mai toccato queste linee, non si è mai unito a queste avanguardie, non c'entra niente con i futuristi, semmai lui si ricollegava agli espressionisti tedeschi e ai costruttivisti russi. Ci fu anche una polemica con Marinetti a proposito. Poi lo stile mussoliniano è una sciocchezza, perché il fascismo, il fascismo si è appropriato, non ha mai avuto un'idea originale che fosse sua, che io sappia, si è sempre appropriato le idee altrui. E lo ha fatto anche con un certo tipo di estetica dei primi anni venti. Gian Dante rientrava in questo tipo di estetica, il guerriero, l'eroe, l'uomo forte, e infatti anche le sue opere sono molto dure, in quel periodo molto lisce, squadrate, forti, no? Sembrano delle prue di navi, no? Che bucano lo spazio. Poi, mano a mano che il fascismo si appropria di quel tipo di estetica, Gian Dante cambia completamente, e alla fine degli anni venti le sue opere, le sue sculture sono completamente diverse. Questa siamo negli anni 50, è un pezzo di terracotta così, perché non aveva i soldi neanche per comprare la creta. Ed è davvero affascinante vedere il passaggio fra un eroe del 23, del 24 e un uomo del 30. Cioè, sembra davvero che Gian Dante abbia colpito, butterato la materia, la superficie di queste sculture per trasformare e rendere inassimilabili da un'estetica di regime. È molto forte. E poi passa dal bronzo o dal gesso liscio, proprio pulito, passa invece al carbone e al cemento. Secondo me vederli in sequenza è davvero entusiasmante. E quindi anche lì ha rinunciato alla possibilità di entrare nel filone del Novecento, e c'erano proprio tutti. Nella prima mostra del Novecento quanti erano? 6, 7? Forse una dozzina? Nella seconda mostra, 2 anni dopo, erano più di 130. Tutti sono saliti su quel carrozzone, lui no, i suoi amici sì. Questi sono studi, gran parte di quelli che vedete sono studi. Sono cose che mi sono arrivate appunto dai Buttafava. Ed erano non sono in sequenza, sono in ordine cronologico. Una chiavetta in cui nella preparazione del libro avevo inserito il materiale. Abbiamo inserito questo, qua siamo agli anni 20. C'è un po' Wild, c'è Liberty. Poi sì, 2 anni dopo ha fatto completamente altro. Cioè era velocissimo. Poi nel dopoguerra invece si è assestato su Volti, Montagne, fiori. Qua siamo nel 28, questi colori del 28 in Italia non c'erano. Si doveva andare in Germania, cioè nell'arte degenerata tedesca, per trovare queste cose. Questo, siamo nel 50, anni 50. Anche questo. Ecco, di questi sono, ne potete trovare, si trovano in giro, su eBay, anche perché dopo che abbiamo cominciato a parlare di Gian Dante le quotazioni sono ulteriormente scese, perché qua siamo nel 28, perché con eBay, cioè, le persone hanno scoperto di avere un quadro di Gian Dante in casa, tutti l'hanno messo su eBay e i prezzi, ma queste sono cartoline dell'epoca. Qui cambia ancora stile, perché doveva parlare, no? Aveva altri riferimenti ancora, doveva essere immediato, perché era propaganda per la Repubblica. Qua siamo negli anni 20, nel 27 fa una serie di disegni architettonici, okay, che soltanto adesso hanno cominciato a fare i palazzi, a realizzare le visioni architettoniche che Gian Dante ha avuto nel 26, solo adesso. Io in un viaggio che feci da ragazzo a Rotterdam, entrando a Rotterdam, vedendo lo skyline di Rotterdam, pensai a Gian Dante, cioè, ed erano cose che erano. E adesso, non so, il centro lì nella fiera, con questi grattacieli che si ad arco, sono tutti i decchi che lui aveva avuto nel 27, era davvero molto molto avanti. Grazie.